Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone qui su Contrabanda per accompagnarvi in questo venerdì sera. A parte il fatto che poi viene sempre qualcuno a parlarci di lui, che pedala in mezzo ai campi verso il sole che gli sta davanti sulla strada. Cade l'inverno del 19, la sua bicicletta già sfida la neve e fende come una cimitarra il ricordo greve della grande guerra. E poi ritorna l'estate padana, lui gira sempre di casa in cascina con tele di cotone e juta sul portapacchi sopra la ruota. Sulla strada. E mentre Binda vince il suo quinto giro, lui sta pedalando lungo un sentiero, la polvere bianca, la gola spezza, col vino fresco bevuto in tazza. La sera moglie, figlioli attenti, seguono il filo dei suoi racconti. Broni e Stradella che quasi Appennino, chissà se il mare sarà più lontano. Sulla strada. E quando la tecnica prendi il decollo, arrivi il moschito, motore a urlo, ma lui avanza puntando ai cieli, al ritmo scandito dei suoi pedali. Poi cadono le bombe alla rinfusa, e questa volta non cambia divisa, ma le bacchette dei suoi freni e le mollette, i pantaloni. Sulla strada. Passa la storia e neanche lo sfiora, passa la vita e se ne innamora, finché non porta l'ultimo assalto, finché si infrange lungo l'asfalto. Là, sulla strada, è stato sorpreso, dalla sua sella non è più sceso. La gente dice che è solo un caso, che è già arrivato su in paradiso. Sulla strada. A parte il fatto che poi viene sempre più qualcuno a parlarci di lui, che pedala ancora in mezzo ai campi, sempre verso il sole che gli sta davanti. Sulla strada, Francesco Guccini, una canzone scritta da Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Secondiano Sacchi è morto lo scorso 19 febbraio a 78 anni, è una grande perdita, un'immensa perdita, non solo personale, perché Sergio è stato un mio grandissimo amico con cui abbiamo portato avanti tanti progetti, ma una perdita per la canzone d'autore italiana, i progetti culturali legati alla canzone e non solo alla canzone italiana. E la puntata di oggi vuole essere un piccolo omaggio a una grande figura che purtroppo ci ha lasciato un mese fa, in pratica. E Sergio Secondiano Sacchi, tra l'altro, è stato anche uno dei nostri più frequenti ospiti qui a Zibaldone. Oltre in 50 occasioni ci ha accompagnato in questi ultimi 15 anni, parlando del Club Tenco, parlandoci di Gianni Siviero, Giovanna Marini, Enzo Iannacci, di Amilcare Rambaldi ovviamente, ma addirittura facendo, no, insieme a me, insieme anche a altri collaboratori di Zibaldone, dei programmi speciali, delle serie, una dedicata a Ernesto Che Guevara Comandante di 4 puntate, un'altra Fidela alla linea nel 2018, 10 puntate in realtà sulla storia della canzone cubana e la canzone non solo legata alla rivoluzione ma anche alla rivoluzione, 4 puntate dedicate a Sergio Bardotti, 5 ai Pambrumisti, il gruppo di cui fece parte Sergio soprattutto negli anni 70, e nel 2013 facemmo anche proprio sulle frequenze di Radio Contrabbanda un programma che si titolava Cose di Amilcare. Ecco, molti di questi programmi li trovate anche sulla nostra pagina web e li potete andare a cercare. Ecco, quest'oggi vogliamo parlarvi di Sergio Secondiano Sacchi ascoltandoci delle canzoni che lui ha scritto, interpretate nella maggior parte dei casi da altri artisti come ora Guccini, canzoni che lui ha scritto o che ha tradotto da altre lingue, e vogliamo ricordarlo insieme ad altri due amici di Sergio. Uno è Antonio Silva, storico presentatore del Tenco, membro anche lui dei Pambrumisti, un'amicizia di oltre 50 anni con Sergio Sacchi, e Alessio Lega, cantautore, scrittore, insomma, che ha collaborato anche lui in tantissimi progetti con Sergio. Andiamo ad ascoltarci ora un brano dei Pambrumisti, siamo negli anni 70, questa canzone è stata scritta da Sergio Secondiano Sacchi e si intitola Ai compagni di Madrid. Polvere spari, per strada si muore, sotto le bombe del traditore. La fiamma si innalza, è rosso è novembre, come se fosse l'inferno da sempre. Seconda brigata all'università, colpo su colpo mantiene la città. Proletari d'Europa sotto il fuoco fascista, a difendere una città che non hanno mai vista. Gli aerei tedeschi e la colonna infame, ma i compagni resistono al piombo e alla fame. Cadono ma cantano, brucia la Spagna, ma libera è Madrid, il popolo lotta e vive la città. Divide un solo fucile, una mano stringerà l'Europa. Fascista in Madrid non entrerà. stelle nel cielo di Spagna, tante le voci che cantano ancora. Per ogni morto di allora c'è un nuovo compagno che lotta nelle fabbriche, giù nelle miniere, che urla nelle piazze, nelle patrie galere. Carmela è viva e ride su Madrid, l'esercito il fiume ancora passerà. Compagni di Spagna il primo aprile avrà bandiere rosse sui tetti di Madrid. Con noi oggi a Zibaldone abbiamo Antonio Silva, un carissimo amico e un grandissimo amico per oltre mezzo secolo di Sergio Sacchi, a cui dedichiamo la puntata di quest'oggi. Antonio Silva, membro del direttivo del Club Tenco di Sanremo da tantissimi anni, storico presentatore del premio che si tiene ogni anno nel mese di ottobre nella Città dei Fiori, e tra l'altro membro storico anche dei Panbrumisti che abbiamo appena ascoltato. Antonio, innanzitutto benvenuto a Zibaldone e buon pomeriggio. Ciao Steven, grazie della tua chiamata, grazie di avermi coinvolto in questo ricordo del mio grande amico Sergio Sacchi. Scusate con gli ascoltatori, può essere che sentiate a tratti la mia voce emozionata, ma proprio non riesco a lasciarlo andare, Sergio, è ancora con me e continuiamo a litigare, a parlare, a discutere, a confrontarci come abbiamo fatto per 55 anni esatti. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie Antonio, grazie, no, per aprirti un po' a noi, anche ai nostri ascoltatori, con questi ricordi. E partirei un po' da lì, perché ci siamo ascoltati questo brano, insomma, degli anni 70 dei Panbrumisti, di cui tu eri membro, e che insomma ci riporta a un contesto in cui è anche nata negli anni precedenti la tua amicizia con Sergio, e da lì poi insomma con Sergio siete andati entrambi a Sanremo, e la vostra traiettoria, la vostra amicizia, le vostre discussioni e il vostro legame con la canzone d'autore italiana e internazionale è continuato fino a quest'anno. Allora sì, io devo al mio amico Sergio tantissime cose, ma due sono state fondamentali nella mia vita. La prima è che fu Sergio a suggerire ad Amilcare Rambaldi il mio nome come presentatore della rassegna. Le prime due rassegne erano state presentate una mezza serata addirittura dallo stesso Sergio Sacchi, erano state presentate da artisti come dire di passaggio, e invece Amilcare voleva una presenza fissa, e Sergio suggerì ad Amilcare il mio nome. Perché? Perché con Sergio eravamo nei Panbrumisti, lo storico gruppo che oscillava tra cabaret e rock progressivo, e qui c'è l'altra cosa importantissima di Sergio nei miei confronti. Quando nel 2005 mi diagnosticarono il tumore alla prostata, lui cominciò a lavorare a questo capolavoro che è un doppio disco, Quelle piccole cose, pubblicato da Ala Bianca, in cui racconta la storia della mia vita e conseguentemente quella dei Panbrumisti. Un lavoro enorme, andatelo a vedere, mi pare che adesso si trovi anche in rete. Cioè Sacchi ha convinto e in parte costretto, come era abile, vedo che ridi, sento che ridi, in parte convinto, in parte costretto, finiti artisti, a cantare per me. Poi si va da Roberto Vecchioni a Milva, a Guccini, a Juan Manuel Serrat. Ecco, questi sono i due elementi che hanno cementato la nostra amicizia. Dal 1971, anno in cui ci incontriamo, ricordiamo tutte e due in particolare quella serata lì, perché fu poi l'inizio di una storia durata appunto 55 anni. Ascolta, no, no, sono tante cose, troppe cose per un programma poi così breve, però insomma, per far capire ai nostri ascoltatori, alcuni probabilmente hanno conosciuto e hanno seguito anche, no, i molti progetti culturali, artistici portati avanti da Sergio Sacchi, e altri probabilmente invece non lo conoscono, sanno poco di lui, ecco, partendo appunto da quello che ci hai raccontato, se dovessi spiegare appunto il Sergio Sacchi degli inizi, il Sergio Sacchi che è giovanissimo, insomma aveva poco più di 20 anni, fa musica, ma comincia anche a studiare, a lavorare appassionatissimo di canzone italiana ed internazionale, ecco, e poi tutto questo sfocia non solo nei Pambrumisti, ma soprattutto poi anche nella partecipazione a quella che è stata la creazione di Amilcare Rambaldi nel 72, la prima rassegna nel 74, che è il Club Tenco di Sanremo. Ecco, come tu spiegheresti soprattutto gli inizi, no, di Sergio e poi insomma quello che è venuto anche dopo ai nostri ascoltatori? Allora, Sergio aveva due caratteristiche fondamentali, allora come oggi. Il suo ambito, la sua passione erano la provocazione e la trasgressione. Così all'inizio come alla fine. Questa vocazione, questa trasgressione può occuparsi sempre di aspetti particolari della storia della canzone. All'inizio nei Pambrumisti, ma anche lì è una caratteristica che è rimasta, lui era il creativo. Soprattutto scriveva benissimo, sia in prosa, sia soprattutto scriveva benissimo le canzoni. Non sapeva suonare un cazzo la chitarra, diciamolo subito. Sapeva fare tre accordi strimpellati, ma con quei tre accordi Sergio costruiva cose straordinarie. Ricordo una canzone dedicata a questa è ormai Via Fiori Chiari, scritta per Enrico Sala, altro pambrinista. Le canzoni scritte per me in quel doppio disco, quelle piccole cose, ci trovate diverse canzoni scritte da Sergio. Ho visto sull'ultimo, ecco un altro aspetto di Sacchi, l'interesse per l'anarchia. Ho visto sull'ultimo numero di A Parte, questa bellissima rivista anarchica, è comparso ancora un pezzo della lunghissima storia dell'anarchia attraverso la canzone e la poesia, scritto da Sergio Sacchi. Quindi il sostantivo giusto l'ha trovato non so chi in questi giorni, definendolo agitatore culturale. Il suo divertimento, la sua passione, ma tu pensa, abbiamo discusso per 40 anni discusso e litigato e sollevato polemiche per 40 anni cosa fosse la canzone d'autore. Arriva lui e lancia una canzone senza aggettivo. Casini a non finire, insulti, lettere di protesta, dimissioni. Ecco, questo era Sergio Sacchi, ma fin dall'inizio, hai capito? Fin dall'inizio lui chiede a Juan Manuel Serrat di cantare per me quelle piccole, aquellas pequeñas cosas, in italiano, ma tradotta in italiano da lui. Sì. Chiede a Guccini. Va bene, di tradurre La Tieta, sempre di Serrat, ma in modenese, non in italiano. Hai capito? Arriva al Tenco e porta i russi, che noi non conoscevamo se non per sentito dire. Vissotsky o Kujava, eccetera. Vissotsky o Kujava, la Bicesca e porta i catalani, ci ha riempito, lo so che parlo a dei catalani, ma ci ha gonfiato le palle coi catalani. No, operazione storia anche Luis Diac, no? Fino all'inizio. Ma noi conoscevamo Serrat, ma non conoscevamo Luis Diac, ti rendi conto? Non conoscevamo Juan Isaac, cioè ha portato Pi de la Serra, cioè ha portato nomi mica paglia, come diciamo, sì, al tempo. Questo era Sergio Sacchi, un vulcano. Mi piace quello che ha scritto il direttivo del Tenco a suo proposito, dice: un'intelligenza guizzante e geniale, e come tutte le intelligenze geniali venata da una simpatica vena di follia, perché c'era la vena, cioè solo Sacchi poteva pensare di fare un doppio disco in cui, aspetta che vado a vedere, 20 più 20 diversi artisti raccontano cantando la storia dei Panbrumisti, che è stata la nostra grande stagione personale, affettiva, musicale, certo, sessuale persino. Il nome originale era Panbrumistic All Demented and Sexual Jazz Band. il nome inventato. Comunque ricordo ai nostri ascoltatori che noi ai Panbrumisti qui su Zibaldone anni fa abbiamo dedicato proprio due puntate monografiche speciali, quindi insomma si possono recuperare. Te le manderò anche a te, Antonio. Bello, che bello. Sì. Ma guardate che lo so, sto parlando di me invece che di Sergio, no? Parlo di Sergio. Guardate che quel doppio disco lì è una cosa folle, è una cosa gigantesca, come erano spesso le cose folli e gigantesche di Sergio Sacchi, che nascevano spesso da incidenti casuali che poi lui sapeva trasformare in operazione di genio. Pensate appunto all'operazione Wysocki, che cos'è stata? Una pietra miliare nella storia della canzone d'autore, eccetera, eccetera, eccetera. Per poi arrivare anche, diciamo, più vicini a noi in alcuni progetti culturali tematici per le rassegne del Club Tenco, degli ultimi anni, le resistenze, Migrants, no? Con la memoria, quella proprio del 2025. Certo, quest'altra idea geniale di fronte ad un Club Tenco che stentava a trovare la retta via in una situazione profondamente cambiata rispetto agli anni 70, quando era nato, ecco il colpo di genio: lavorare per temi. Ogni rassegna un tema in cui, attenzione, la canzone non è più solo ascolto e divertissement. Se tu dedichi un tema alla rassegna, la canzone diventa uno strumento di analisi e di ricerca. Sergio ed io tenevamo moltissimo a questo aspetto, cioè la canzone non è più solo roba gastronomica, come avrebbe detto il Buonanima, hai capito? E questa è un'operazione di una rilevanza intellettuale straordinaria. Chi avrebbe mai pensato di usare la canzone per analizzare la storia? Di solito si usa la storia per analizzare la canzone, non viceversa. Sergio Sacchi usa le canzoni per interpretare, spiegare, illustrare a volte la storia. E chiuderei con un'altra menzione al riguardo, le pubblicazioni anche che Sergio ci ha lasciato, libri, curatele, ma penso ad esempio proprio in questo legame tra canzone, storia e cultura più in generale, per esempio a Canzoni d'amore ed anarchia o Vent'anni di 68, ma ce ne sarebbero tante altre da menzionare. Perché Sergio era un intellettuale raffinato, aveva una cultura mostruosa, era l'unico che ne sapesse un po' più di me, lo dico con assoluta, in assoluta umiltà. E scriveva benissimo anche in prosa, a volte poi mi chiedeva di scrivere la presentazione di qualche suo libro, naturalmente me lo chiedeva per il giorno prima, perché lui lavorava con ritmi folli, era un grandissimo intellettuale, oltre che un appassionato di musica, tanto per brandizzare, ma anche lì, provocazione e trasgressione. I suoi miti erano Céline, la letteratura russa, letteratura russa di opposizione al regime, cioè sempre contro, sempre fuori, sempre ai margini. Sì. Il Sergio. Ascolta, Antonio, grazie davvero di averci accompagnato quest'oggi. Torneremo a riparlare di Sergio e spero di farlo ancora con te come ospite qui a Zibaldone. Un grande abbraccio. Tutte le volte che vuoi, grazie a voi, saluti ascoltatori. Ciao. Sul burrone, proprio al baratro, al limite del buio, i cavalli sto frustando sempre più. Ed il cuoio sembra acciaio e non so perché manca l'aria. Con ansietà io nebbia ingoio e c'è una voce dentro a me che dice: io scompaio, non correte amici miei nel portarmi via con voi, non correte. Ma cavalli bravi ho avuto in sorte, non potrò fermarli mai, non potrò finire qui questo ultimo refrain. Io vi abbevererò per restare un poco qui a cantare ancora qui, solo un po', solo un po'. E sarà un uragano a fermare la mia ora, al galoppo su una slitta, nella neve di un'aurora. Sì, ma voi, cavalli miei, riducete l'andatura e allungate la mia strada per quell'ultima dimora. Non correte, amici miei, nel portarmi via con voi, non correte se frusterò, ma... Cavalli bravi ho avuto in sorte, non potrò fermarli mai, non potrò finire più questo ultimo refrain. Io vi abbevererò per restare un poco qui a cantare ancora qui, solo un po', solo un po'. Arriva mai in ritardo se c'è Dio che ci riceve, ma perché gli angeli in coro hanno le voci così cattive? Io non so se è il singhiozzo che fa il suono così grave, o sono io che non vorrei e urlo a voi di andare altrove. Non correte, amici miei, nel portarmi via con voi. Non correte se frusterò, ma... Cavalli bravi, ho avuto in sorte, non potrò fermarli mai, non potrò finire più questo ultimo refrain. Io vi abbevererò per restare un poco qui a cantare ancora qui, solo un po', solo un po'. Dopo questa bellissima versione interpretata da Peppe Voltarelli di Cavalli Bradi, brano di Vladimir Vysotsky, tradotto in italiano da Sergio Sacchi ovviamente, ce ne accennava anche Antonio Silva, adesso abbiamo con noi Alessio Lega, a cui do subito un caloroso bentornato a Zibaldone e auguro buon pomeriggio. Ciao a tutti, anche se per questa puntata non del tutto serena. Assolutamente vero, assolutamente così. Alessio, ti ringrazio di aver trovato il tempo per parlare un po' con noi, per parlare di Sergio Sacchi, un tuo, un nostro grande amico con cui insomma tanti anni di dibattiti, di progetti, di concerti, di dischi, ma insomma ne parlavamo anche prima con Antonio Silva per spiegare ad alcuni dei nostri ascoltatori che forse non hanno conosciuto Sergio, ecco, come riassumere la sua traiettoria legandola a quello che ha significato Sergio Sacchi per la canzone d'autore e la progettazione culturale legata alla canzone d'autore. Inizio con una citazione che è un gusto molto sacchiano. Una canzone di Herbert Pagani sull'amicizia dice: nasce con un pugno dato per antipatia. E mi fa pensare a Sergio. Sergio, la prima reazione poteva essere addirittura respingente, ma io direi che proprio lui aveva la capacità di fare progetti culturali, di entrare nelle situazioni, di smuoverle caricandole a testa bassa. A un certo punto, non so se ha capito o ci si è trovato, come si fa a sapere come si muovono le cose nella vita, ma a un certo punto ha capito che forse nella sua generazione cantautori, autori di canzoni, cantanti, di buoni ce n'erano fin troppi. E ciò che mancava era un organizzatore culturale capace di mettere in relazione gli esseri umani, le canzoni, il pubblico con gli artisti, di offrire legami nuovi, di guardare dall'alto la canzone d'autore, di riuscire a costruire un concetto europeo, se non mondiale, della canzone d'autore. E questo era Sergio, superare sempre i limiti, confonderli e farlo anche con una perentorietà che sfiorava la malagrazia. Non è stato facile diventare amico di Sergio, è stato indispensabile. Ascolta, abbiamo ascoltato questo brano interpretato da Voltarelli di Vysotsky, ecco, ce lo accennava anche Antonio Silva. Vysotsky forse è stata la prima grande operazione culturale, siamo tra fine anni 80 e primi anni 90, di Sergio, che si è legata evidentemente al premio Tenco di Sanremo, a dischi, libri, ecco, è stato l'inizio di tante cose. In realtà molte cose erano cominciate prima, però ecco, l'operazione Vysotsky sicuramente è stata un momento che ha marcato un prima e un dopo. Allora, a livello personale suo, intendo dire, la cosa era nata da una sorta di lascito, di provocazione, non so nemmeno come raccontarlo. Bulat Akhuzhava, il grande maestro della canzone sovietica, russa, figlio di genitori fucilati, insomma, che aveva dentro di sé tutta una serie di tragedie del suo tempo e del secolo Novecento, aveva lasciato su un libro a Sergio una dedica fatta anche a nome di Vysotsky. Cioè, aveva detto: io scrivo per lui che non può più cantare. E Sergio ha interpretato questa cosa qui come una sorta di comandamento: vai, scopri e fai scoprire. Lui prima non ne sapeva niente o quasi di Vysotsky. Da quel momento è partito alla scoperta di questo monumento della canzone d'autore, ma direi della cultura del Novecento. E non è un'operazione di traduzione, è una vera e propria operazione di ricostruzione e riscoperta. un'operazione straordinariamente fortunata, probabilmente ha incrociato, come dire, i meccanismi giusti. A livello personale, non più suo ma mio, io ti dico che quell'operazione, in un periodo in cui io non mi occupavo di canzoni, cioè le amavo, le adoravo, le ascoltavo, il disco Il Volo di Volodia, quindi il disco dedicato a Vysotsky, mi fece dire, come al Frankenstein Junior di Mel Brooks, si può fare. Sì, sì, fu una rivelazione. Guarda, ci fu un periodo in cui ascoltavo solo quello. Era un periodo in cui ancora non erano tanto diffusi i telefonini e quindi capitava che dopo le cene con gli amici si tirava fuori la canzone, si tirava fuori la chitarra e si cantava collettivamente. Però, come al solito, c'è sempre qualcuno che ti chiede: facci almeno una canzone che conosciamo tutti e che puoi cantare. Io mi presi talmente tanto di quel disco che facevo da promoter a quel disco. Avevo imparato sia la canzone cantata da Finardi, sia quella cantata da Capossela, sia Il Volo di Volodia cantata, chi la cantava, aspetta, vabbè, insomma, sia Il Volo di Volodia, che era la canzone proprio scritta da Sergio Sacchi e dedicata a Vysotsky, sia altre, e le cantavo di seguito raccontando la storia in mezzo, quindi certo. Mi aveva talmente preso e la gente mi diceva: ma che cazzo. Tra l'altro Finardi, che poi fece un intero disco cantando Vysotsky su traduzioni di Sergio Sacchi, un disco di qualche anno dopo, siamo già nel nuovo millennio, un disco bellissimo, ecco. E poi insomma venne Pablo Milanese, un'altra operazione di quegli anni 90 del Tenco, coinvolgendo grandi cantautori italiani e non solo italiani, ecco. Ma poi insomma continuando nell'ultimo trentennio, le operazioni culturali che ha fatto Sergio, ne ricordavamo prima con Antonio Silva alcune, no, le rassegne tematiche al Tenco, però ci sono progetti di libri e di dischi, la riscoperta di Gianni Siviero ad esempio, no? Mi viene più difficile parlarti di queste cose, per me sono operazioni fenomenali, sono cose straordinarie, sono per certi versi più belle di qualsiasi disco che possa fare qualsiasi vecchia gloria della canzone d'autore che cerca di mantenere alta la sua bandiera, ma che in qualche modo finisce evidentemente per ripetersi. Invece queste operazioni di scoperta culturale per me sono luminose e indispensabili. Ma dato il fatto che Sergio mi ha coinvolto, credo, in tutte, mi sento anche un po' imbarazzato, perché per quel poco che valga c'è anche il mio contributo dentro, in qualche misura, diciamo, veramente, no, non voglio fare quello che la sa troppo lunga, ma ogni volta che Sergio mi proponeva qualcosa o addirittura me ne parlava, io in qualche modo ci stavo già un po' lavorando, quindi ci incontravamo al vertice, c'era questo specchiarsi l'uno nell'altro. Con questo non voglio dire, non voglio, come dire, mettere me stesso al fianco, voglio solo dire che ero stato un allievo, ecco, un allievo, ma forse un discreto allievo di questo atteggiamento. Ecco. E che credo che questo atteggiamento oggi sia l'atteggiamento più consapevole e più innovativo con cui ci si possa rivolgere alla canzone d'autore, cioè ormai se ne sa talmente poco, ci sono talmente poche connessioni, ormai non conosciamo niente di quello che succede da un'altra parte. Se abbiamo sempre saputo poco di quello che succedeva in Francia, in Spagna, oggi non ne sappiamo proprio nulla, siamo tutti chiusi nelle case senza ponti. In questo senso qui, più avveniva questo meccanismo di isolamento culturale, più Sergio andava come un Don Chisciotte contro i mulini a vento e apriva spazi, bucava frontiere, metteva in relazione culture, mescolava addirittura poi col rapporto d'amore che ha avuto con la Catalogna, con la musica spagnola, eccetera, ha cominciato a fare anche un lavoro inverso, di riversare dal resto del mondo nella Catalogna, a Barcellona. Io ne so qualcosa, perché, ecco. Sei una vittima anche tu di questo atteggiamento, perché si era travolti da Sergio. Ecco, però io penso che al di là della privata ossessione, perché la si può prendere anche per la privata ossessione di un genio della comunicazione, però invece no, secondo me è l'indicazione di qualcosa che in futuro non può che riguardarci, cioè se vogliamo occuparci di canzone d'autore, ma più in generale di cultura popolare, bisogna fare così, bisogna portarsi il proprio zaino con la propria piccola cosmogonia dietro e riversarla nel luogo in cui viviamo, coinvolgere la gente. Poi alla fine per Sergio ciò che c'era di più importante era l'incontro fra gli esseri umani. Il famoso detto di il famoso verso di Vinicius de Moraes, che è stato anche un po', insomma, uno delle basi della storia del Tenco fin dai tempi di Amilcare Rambaldi, no? La vita, amico, è l'arte dell'incontro. Vero, ma in qualche misura per tutti gli altri, anche straordinari personaggi che lavoravano nel Tenco, la cosa in qualche modo nasceva e finiva lì, o quantomeno aveva in quello il momento principale. Si può dire che invece per Sergio le cose partissero da lì, che quello era, come dire, il mare più pescoso, ma che poi riversava esattamente con la stessa passione, se non forse con una passione ancora maggiore, i mille rivoli di tutti i suoi rapporti, che non dimentichiamocelo, eccedevano anche la musica, la letteratura, che erano anche nell'architettura, insomma, quindi anche nella progettazione degli spazi, insomma, era una specie di personaggio rinascimentale, ma con una certa consapevolezza del tempo moderno. Tra i tanti progetti anche così che possiamo menzionare anche per gli ascoltatori, ricordo prima con Antonio Silva menzionavamo Storie e amori d'anarchie, i 68 in noi, i 20 anni di 68, ci ho scritto anch'io, c'erano i disegni di Sergio Staino, c'erano due CD allegati, quindi anche lì progetti sempre amplissimi, quasi enciclopedici. Ecco, ricordo anche Multifilm sulla figura del padre, e lì tanti artisti coinvolti, c'eri anche tu, no, Alessio, traduzioni, importazioni per far conoscere canzoni che venivano da altre latitudini. Ecco, qui per chiudere insieme a te questa brevissima chiacchierata, ecco, la Francia e la Catalogna, la Spagna e l'America Latina forse sono state alcune, no, delle culture musicali, della storia della canzone d'autore che Sergio più anche ha aiutato a far conoscere in Italia. Sì, ma la cosa importante, ovviamente la Russia, ovviamente, no? E a Vysotsky, Mokujava. Certamente tutto questo, ma con una con quella straordinaria disinvoltura che possono avere solo gli amanti della cosa o i creativi. Cioè, era anche un grande trasgressore, giustamente. Come dici tu, reinventava i brani, perché in certi casi reinventarlo è necessario. Perché vedi, ci sono due tipi di fedeltà. Si può essere fedeli a un testo o fedeli a un autore. Fra queste due cose, Sergio sceglieva sempre la fedeltà all'autore. Sergio non era fedele alla poesia, era fedele al poeta. E questo si vede bene in un altro progetto che secondo me è molto bello, è stato molto riuscito, che è quello di far conoscere in Italia, e il successo, bisogna dire, di questa operazione è stato relativo, niente a che vedere con Vysotsky o con Milanessa 20 anni prima, Joaquín Sabina, uno dei grandi, delle grandi voci e dei grandi poeti della canzone spagnola degli ultimi 40 anni, un disco interpretato da Lu Colombo, dove proprio le traduzioni di alcuni dei brani di Sabina, ecco, non sono fedeli al testo, no, come tu dicevi, ma sono fedeli al poeta, o in questo caso il cantautore. Sì, poi appunto aveva anche questo suo gusto particolare, lui era in grado di lavorare su tutto, di lavorare su Okudžava come su Vysotsky, di lavorare su Brassens come su Brel, di lavorare sulle poesie messe in musica da Paco Ibanez come su Sabina. Però aveva una specie di piacere ulteriore nel lavorare sugli artisti raffinati ma popolari, e quindi Brel più di Brassens. Cioè, più che la estrema levigatura di Brassens, gli interessava la violenza di Brel. Vysotsky più che Okudžava, perché più che la grande complessità, la grande tenuta letteraria di Okudžava, gli interessava la violenza espressiva, la vitalità estrema di Vysotsky. E quindi Sabina più che altri magari più raffinati, perfezionisti. Aute, che ha amato molto, no? Esatto, no, ma intendiamoci, cioè, non è che lui non riconosceva il valore, però a un certo punto, proprio parlando con me, dice: ma sai, queste cose in punta di forchetta te le lascio a te, a me interessa. E capiva che proprio in qualche modo Brassens è chiuso in una specie, è così come lui Okudžava, come lui tanti altri. Ci sono degli artisti che sono delle sfere compiute e ci sono degli altri che sono esplosi verso il mondo. Ecco, lui amava questi esplosi, ma per tradurre qualcuno così, qualcuno di estremamente passionale, e devi reinventarlo completamente, perché c'è una specie di come posso dire, di feroce relazione con la cultura popolare che non è mai la stessa in due paesi. E quindi reinventava continuamente questi meccanismi, anche con una ricerca ossessiva. Sergio, pur secondo me essendo un buon interprete, anche se poi non l'ha mai fatto dal vivo se non nel primissimo periodo, pur essendo potenzialmente un buon interprete delle proprie traduzioni, aveva anche una specie di ricerca ossessiva delle voci, della voce adatta a quella cosa. Non è un caso che traduce Sabina per un'interprete specifica e lavora per quell'interprete, perché secondo me non avrebbe tradotto esattamente così se non sapeva. Certo, poi certo, magari una volta che la traduzione era fatta la poteva anche assegnare a un altro interprete, ma quando ha concepito un disco per Voltarelli ha tenuto presente la vocalità di Voltarelli. Certo. E questo, guarda, ce lo andiamo a sentire proprio ora, perché parlando di Sabina, l'interprete è Lu Colombo, e andiamo a ascoltarci questo brano che ha Al chiosco di Giosuè, nel titolo appunto, nella versione italiana, con traduzioni di Sergio Sacchi, e capirete bene, soprattutto poi se conoscete anche Sabina, questo lavoro di traduttore, traditore, ma allo stesso tempo appunto anche di attenzione all'interprete. Alessio, il tempo in radio purtroppo è tiranno, parleremo ore di Sergio, parleremo ore qui con te, ti ascolteremo molto volentieri, ma lo rifaremo presto. Grazie davvero di averci accompagnato. Dai, grazie a te, a presto e viva Sergio. La notte che Rossellina fece una scena alla patria potestà, e oltre all'attico all'arena chiese un SUV in proprietà. Giù al parco su una panchina lui si svegliò, e il chiosco di Giosuè era proprio lì di fianco, e con passo stanco al banco si avvicinò. Ne resta un poco di meno, sereno gli fece quello e gli servì con un gesto di routine il solito goccio di gin. Così lui con meraviglia la bottiglia controllò, e poi, dato un ciao a Samantha che lì accanto era di ronda, recuperò l'ambito posto d'onore da gran socio fondatore, cavaliere di corvée la tavola rotonda del caffè di Giosuè. E c'era Daphne, petto benigno, Black Macigno e il suo collega, che con l'archetto e la sega suona Chopin. Marta, che è quasi straniera, detta diva dei due mondi. Paolo, t'arriva all'addome, ma c'ha il nome dei grandi, Maldini e Gauguin. Associato in società con tali soci, ciascuno immaginerà che anche il lavoro non va, che la salute non c'è e anche l'amore non è mai dei più felici. Poi accarezza la schiuma di una tristezza crepuscolar. Tra l'ossido quotidiano e le utopie nel gelo, con l'azzurro arcano del cielo, secondo Rai 3, è la famosa cazzata candidamente sparata da Giosuè, che quando gli fu chiesto se era mai stato innamorato, con tono da intervista, no, signori, disse no, sono sempre stato barista. Accanto a Daphne di Sentinella c'è sempre Lella, Bubu l'atleta, il programmatore poeta che legge il c'è. La carmelitana scalza, coi tacchi a spillo del 10, Matilde dai pianti greci, cugina d'una vicina della Bertè. Associato in società con tali soci, ciascuno immaginerà che anche il lavoro non va, che la salute non c'è e anche l'amore non è, non è mai dei più felici. Associato in società con tali soci, ciascuno immaginerà che anche il lavoro non va, che la salute non c'è e anche l'amore non è, non è mai dei più felici. Associato in società con tali soci, ciascuno immaginerà che anche il lavoro non va, che la salute non c'è e anche l'amore non è, non è mai dei più felici. Questo era Joaquin Sabina, tradotto da Sergio Sacchi, al chiosco di Giosuè, al caffè de Nicanora di Joaquin Sabina, la voce è quella di Lu Colombo. Siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata dedicata a Sergio Secondiano Sacchi, per Sergio è il titolo, molto semplicemente. E tante cose non abbiamo detto di Sergio, no? Alcune le avete capite, le chiacchierate con Antonio Silva ed Alessio Lega, insomma, fin dagli albori nel Club Tenco di Sanremo, nel direttivo vicino ad Amilcare, poi direttore artistico dal 2017 a questo inizio di 2026, tanti articoli scritti già dagli anni 70 in riviste come Musica e Dischi, Tango, Linus, Smemoranda, e poi appunto i progetti culturali, i dischi, i libri legati alla canzone ma più in generale alla cultura, oltre a quelli che abbiamo ricordato, da Luis Liac a Vysotsky, a evidentemente anche Pablo Milanés, o sui francesi, no, come Brassens, il lavoro fatto con Alberto Patrucco e Daniele Caldarini. Vorrei anche ricordare un disco che ebbe tanto successo all'inizio di questo millennio, dedicato a Che Guevara, ma poi anche insieme a Stefano Senardi, a Fernanda Pivano, I miei amici cantautori, o altri libri, alcuni del Club Tenco, altri invece usciti con Squilibri, senza il marchio del Tenco, e poi il progetto che abbiamo avuto e che continua ad esistere, che è l'associazione Cose di Amilcare qui a Barcellona, la costola, per così dire, catalana del Tenco. E noi chiudiamo questa puntata di Zibaldone lasciando tante cose in sospeso, e con una chicca che è un inedito, ossia Sergio Secondiano Sacchi alla voce, che canta questa canzone che prima è stata nominata anche da Alessio Lega, che è Il volo di Volodia, una canzone scritta appunto per Vysotsky, che è stata interpretata da altri nel disco Omaggio a Vysotsky, che uscì come dischi del Club Tenco più di 30 anni fa, e qui è una registrazione recente, inedita, e con questa canzone ci vogliamo salutare, insomma, nel viaggio che starà facendo, salutare anche Sergio e ringraziarlo per tutto quello che ci ha regalato e gli insegnamenti che ci ha dato. Adios compagnero, Il volo di Volodia, Sergio Sacchi alla voce. Quando a te arriveranno gli ultimi scordati pure dei crisantemi, arriveranno con passo cedere, perché a crepare sono sempre i primi, e quando arriveranno gli inutili, tagliando finalmente un traguardo, e quando arriveranno i timidi, uccisi da un sorriso, da uno sguardo, e quando arriveranno le lucciole, con i tacchi sui calli e sul cuore, chissà con quale animo saprei parlare loro d'amore. E quando arriveranno i fradici, vomitando grappe da 2 lire, e ti offriranno gli ultimi spiccioli per un penultimo bicchiere, allora tu, Signore, tu chiederai pietà. Allora tu, Signore, tu chiederai pietà, tu chiederai pietà, tu chiederai. E quando arriveranno i fossili, che non è per dire, ma ha lavorato tutta una vita, e si guarderanno intorno attoniti, perché vacca miseria è già finita. E quando arriveranno i fragili, con ancora in bocca il sapore del gas, e quando arriveranno i semplici, con il loro fustino di dash, e quando arriveranno i musici, prigionieri delle loro chitarre, e solo allora capiranno increduli che quelle corde sono le loro sbarre. E quando passeranno i secoli e da te non verrà più nessuno, perché di tutti quegli scrupoli sapranno fare pure a meno. E allora tu, Signore, tu chiederai pietà. Allora tu, Signore, tu chiederai pietà. Tu chiederai pietà.